24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Ve la dico in modo semplice, paro paro: se non si fa quello che chiediamo noi, finisce. È abbastanza chiara. Se non si fa come dite noi, dice Renzi, finish, chiusa, game over, aveva detto un'altra volta. E così parlò Matteo Renzi. Ma come, sembra Silvio Berlusconi, quello più d'assalto, di lotta. No, invece Renzi, se non si fa come dite noi, come diciamo noi, finish, chiuso. Va bene, sono le 6.33, noi invece apriamo 24 mattino. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, l'alpino Peter Bescapè in regia. Saluto le mie 4 ore di sonno, insomma, sono quelle cose che... Milan, ti avrei rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore, e tutte le settimane sempre a stare rotto i coglioni. Ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza, non mi vado a rompere i coglioni a gente come voi, Vabbè. Chiedo scusa, che devo fare allora? Chiedo scusa, rientro in me. Va bene, apriamo il Parlamento a questo punto. Oh, qua uno non può dire mezza parola, che subito... Il caffè volentieri a tutti quanti. Vabbè, almeno Nicole Minetti offre il caffè. Vabbè, siamo tutti un po' più allegri. Evviva, evviva. Allora, voglio salutare Vladimir Luxuria, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Oggi, lo so. So che è a Trieste, ci svelerà tutto, a Trieste, perché c'è Putin. Sì. C'è Putin. Attenzione. Vladimir contro Vladimir qui, eh. Attenzione! Vladimir, questa effettivamente non ci avevo pensato. Vladimir Luxuria contro sarebbe Vladimir Putin, insomma, però vabbè. Allora, Vladimir, voglio salutare. L'ultima volta vi eravate sentite, vi eravate anche un po', insomma, così prese, ma la direttrice, la capa, la numero uno della Padania, Aurora Lussana, che oggi fa l'editoriale su Putin, attenzione, sulla prima pagina della Padania, l'editoriale su Putin. Aurora, buongiorno, come va? Buongiorno a te Alessandro, un caro saluto a tutti gli amici di Radio 24. Allora, hai spinto macchine, ci sono cellulari persi, ti ha svegliato alle 3 di notte. Devo cambiare gli pneumatici. No, perché c'è l'ordinanza, bisogna avere le catene da neve a bordo, ma tanto sì, non so. Su al nord, al nord. Certo, ma poi c'è vento dal nord in sti giorni che non sì. Ti dico, quindi devo mettere sugli pneumatici da neve perché c'è l'ordinanza. Ah, allora, sveglia presto. Allora, oggi, cara Vladimir Luxuria, la Padania fa l'editoriale proprio sulla presenza di Putin, a dire nessuno che quando vengono gli sceicchi arabi, tutte quelle persone che vengono da quei paesi dove non è che gli omosessuali siano trattati molto molto bene, nessuno che in scena proteste, che fa casini, eccetera. Invece Vladimir Luxuria oggi per esempio a Trieste, perché? Per vederla faccia a faccia con Putin, no? Sì, visto che non ne ha parlato il ministro Bonino quando ha incontrato l'omologo ministro degli esteri russo, e che non lo farà neanche Letta, non lo farà Berlusconi, non lo farà Prodi, non lo farà nessuno, perché quando si fanno questi incontri bilaterali si parla solo ed esclusivamente di questioni economiche, che venga, ovviamente bisogna parlare, però non si parla mai di diritti umani, e quindi che si tratti di Arabia Saudita, che si tratti di Russia, bisogna che si deve capire che di queste questioni bisogna parlare. In Russia Putin ha promulgato una legge per cui se io parlo di omosessualità in maniera pubblica, in un talk show politico, in un'intervista su un giornale, rischio una pena o di tipo amministrativo, se non addirittura il carcere. Quindi ha fatto una legge liberticida in una delle più grandi potenze del mondo, e quindi noi saremo lì a ricordare quello che invece gli altri non ricorderanno. Ne ha parlato un po' tutto il macio dalla cintura nera di karate, che pensa che forse la virilità di un uomo si misura in base a queste cifre nere di carattere. Effettivamente ne ha parlato anche mezzo mondo. Ci sono stati atleti russi che si sono esposti, alcuni no, altri si sono esposti e poi hanno fatto marcia indietro. Insomma, è un tema di cui si è parlato molto. Aurora Lussana, cosa non va bene in questo ragionamento? Mi sembra un ragionamento, no? Vladimir Luxuria no, dice. No, ma ci mancherebbe. Luxuria fa tutte le proteste che vuole e oggi faccia l'accoglienza che meglio crede al presidente Putin. È assolutamente legittimo ci siano anche delle critiche alla gestione, diciamo così, dei diritti delle minoranze in Russia, perché insomma è stato lo stesso Putin quando credo nel 2012 ha incontrato il patriarca di Mosca a promettere che avrebbe, una volta rieletto alla presidenza della Russia, avrebbe difeso i diritti anche della cristianità. C'è una forte matrice religiosa nella sua presidenza. Lui dice: io voglio difendere innanzitutto però i diritti della maggioranza. Noi abbiamo dei valori, delle tradizioni. Se possono difendere i diritti di tutti, vanno tutelate. Ho capito, ma basta quindi difendere i diritti di tutti. Che problema c'è? Insomma, non è che difende i diritti degli uni. Ma la legge, fino al 93 l'omosessualità col comunismo era considerato reato. L'introduzione di questa legge di fatto vieta la propaganda di altre tradizioni familiari, non parla neanche di omosessualità, gay, lesbiche, transgender. Però ricordiamo la frase, disse una volta a Berlusconi: se fosse stato omosessuale nessuno l'avrebbe toccato. Questa fu anche una frase, no? Che disse. C'è un po' l'ossessione, effettivamente, c'è un po' il pallino di parlare degli omosessuali, non so. Vladimir, intanto cosa inscenate oggi? Cosa pensate di fare? Cioè, pensate di avvicinarvi a Putin? Guarda che quelli vi stendono con tre mosse di karate, non fanno mica scherzi i russi. Ma guardi, intanto volevo ricordare che un altro Vladimir, che invece Lenin nel 17 fu il primo a depenalizzare l'omosessualità, che invece fu di nuovo criminalizzata da Stalin con addirittura i gulag per gli omosessuali. Quindi è una storia molto lunga in Russia, quella del rapporto con l'omosessualità. Oggi faremo una manifestazione di protesta, ci metteremo a 300 metri da dove viene fatta la bella foto di gruppo. A distanza, giustamente. Sì, un po' andate a Mosca a farle queste manifestazioni, non a Trieste. Non ho capito. Andate a Mosca, dice Aurora Lussana, mica a Trieste, guardi, a Trieste è facile. Ha trovato la persona adatta, perché io sono stata a Mosca. Effettivamente è stata, Vladimir. A un Pride e ho provato cosa significa la paura di vederti gli ultranazionalisti con i coltelli, di vedere i fondamentalisti ortodossi che mi lanciavano le uova e di vedere una polizia che non fa nulla per difenderti. Quindi, capito, Aurora, è andata in prima linea, mica fa. No, ma lo sappiamo, appunto, dico, per quello che dico, vada a Mosca e faccia le sue battaglie là, difesa di chi rischia la libertà, una legge liberticida, bene. Che vadano a aiutare, cioè, insomma, però tradotta così sembra non rompa le scatole a Trieste. Ma figurarsi, certo, Trieste continueremo... è una città meravigliosa, accogliente, ma hanno detto che non funzionano neanche i cancelli automatici in queste ore a Trieste per garantire la sicurezza. Hanno blindato tutto, schermato la città. Sì. Detto questo, Putin non si può semplicemente ascrivere, insomma, la sua attività politica e soprattutto tutto il suo impegno geopolitico, penso alla Siria, quello che ha fatto Putin per la Siria in questo momento è forse quello che nessuno ha mai fatto per il Medio Oriente, quello che ha fatto per il suo paese forse non credo che i russi in questi anni abbiano avuto una crescita economico-sociale notevole. Non si può ridurre la questione. Poi ci mancherebbe. Guarda, io sono per l'amore panico, ci mancherebbe che siamo qui a menare le robe, ci mancherebbe che siamo qui a discriminare. Cos'è l'amore panico? Ma adesso siamo qui con le robe qui, uomo-donna, l'amore assoluto. Adesso veramente, cioè voglio dire, siamo al simposio di Platone, uno ama chi vuole, però ripeto, viene qui a dire che Putin è solo quella legge liberticida lì, mi sembra proprio credo di no questo. Vabbè, ieri ha visto anche il Papa, così chiudiamo la questione. Vladimir, ha dato un fastidio che ha visto il Papa? No, non mi dà fastidio che abbia visto il Papa, tant'è che noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, abbiamo deciso non di manifestare in Vaticano quando lui incontrava il Papa, perché abbiamo deciso invece di manifestare a Trieste dove lui incontrerà Letta, e credo che sia assolutamente giusto far sentire la voce quando vengono incontrate queste persone, che voglio dire, non è solo che ha fatto una legge liberticida contro i gay, voglio ricordare il Putin anche che sulle Pussy Riot si è comportato in questa maniera. Proprio ieri era la giornata contro la violenza sulle donne. Voglio ricordare che un Putin che mette a tacere il dissenso con metodi davvero poco democratici anche nei confronti dei giornalisti, i diritti, e degli oppositori politici. Sui diritti umani. Quindi, non va bene, ecco, diciamo, non è un eroe dei diritti umani e verrà colto. No, ma come tanti Russia, esportate voi la democrazia in Russia, che così, no? No, no, ma la questione è come tutte le volte quando si incontrano gli esponenti della Cina si parla di queste cose. Comunque, insomma, veniamo a cose più terrene, più italiane. Allora, pentitevi, ha detto, pentitevi. Pentitevi se voterete la mia decadenza. Io intanto devo dire, do di tasca mia, non so, se li avessi, 1 milione di euro ai giornalisti che sono obbligati a leggere le nuove carte di Berlusconi. C'è qualcuno, Aurora, a cui hai dato l'incarico all'interno della Padania, studiati le carte di Silvio Berlusconi nuove e fai un articolo. Gli vorrei dare 1 milione di euro per solidarietà. Qualcuno della Padania si è deputato a questo? No. Ho mandato un giornalista in Tunisia perché oggi lo sai che la CGIL apre sportello del sindacato della CGIL. Ma chi se ne frega? Hai mandato uno in vacanza in Tunisia? Ma dai, su. No. Comunque nessuno. Altro che Berlusconi. Però sentiamolo. Pentitevi. Riflettete, non è che dunque, colleghi senatori, riflettete prima di prendere una decisione così grave. Non lasciate che nella vostra coscienza prendere il sopravvento sulla verità e sulla giustizia le convenienze politiche del momento. Non assumetevi una responsabilità che graverebbe per sempre sulla vostra storia personale, sulle vostre coscienze. Una responsabilità di cui nel futuro dovreste vergognarvi di fronte ai vostri figli, ai vostri elettori, di fronte a tutti gli italiani. Accidenti, insomma, l'appello è quello. A me ha ricordato, Vladimir, non ha detto pentitevi, però mi ha ricordato, no, quel film tratto dallo straordinario libro di Umberto Eco, no? Il Penitenziagite. Penitenziagite! Ma il Little Brother! Penitenziagite! Come se fratello Salvatore, Vladimir Luxuria. Il nome della rosa, sì, bellissimo. Sì, sì. Pentitevi. Tu, no, Vladimir. Non funziona come predicatore. No, non funziona. No. Allora. Ho fatto una vita lussuriosa, predicatore non ci piace. Ah, ecco. Vladimir, tu ti pentiresti? Eri in Parlamento, avresti potuto votare un tempo sulla decadenza di Berlusconi, ma invece no. Ma si votano le leggi di Stato e, tra l'altro, votate anche dallo stesso ex PDL e si votano per il rispetto e l'applicabilità delle sentenze giudicate ormai in maniera definitiva. Mi viene il sospetto che forse Napolitano non ha concesso la grazia a Berlusconi, perché forse pensava che fosse il nome di una ragazza, non so. No. Vabbè, la grazia. No, ho concesso la grazia. Vabbè, insomma, Aurora, che succederà? Voi siete già oltre? Oggi sul Corriere c'è scritto: i partiti sono già oltre, pensano già a che succederà dopo Berlusconi. Sì, sicuramente anche dopo l'ultimatum di Matteo Renzi, il 9 dicembre qua cambia tutto, cambia musica, finisce. È ovvio. Anche le difficoltà che sta incontrando la legge di stabilità nei giorni scorsi in commissione, adesso la fiducia, sono ore difficili, ore complicate, quindi meglio parlare dell'indipendenza energetica del nostro paese oggi a Trieste, dei buoni rapporti la Russia, certo, ma vabbè. Sì, dai. Portiamoci verso l'asse euro-russo, ecco, l'asse euro-russo, andiamo a sentire il traffico, va, rientriamo con la segreteria telefonica. 24 mattino. Buongiorno, io chiamo da Imperia, dove dovremmo vivere di turismo. Invece viviamo di votificio. Migliaia di persone che sono state assunte da tutte le parti, partecipate, regione, provincia, comuni. È una cosa vergognosa. Enrico Letta, presidente del Coniglio. Con quella faccia da sagrestano. Ma è la segreteria di ieri. Ma è la segreteria di ieri questa. Non mamma ti vergognare. è Matteo Renzi, che è bravo che è democristiano, ti sta sodomizzando. Vabbè, mannaggia. Alessandro! Vabbè, questa è la segreteria telefonica di ieri, ma vabbè, che succede qua l'Alpino, l'Alpino! Va bene, dai, siamo con Aurora Lussana, direttore della Padania, direttrice, capa, numero uno indiscussa, e Vladimir Luxuria. In Lega c'è la democrazia ormai con i congressi. In Lega c'è la democrazia, parole forti di Aurora Lussana. In Lega c'è la democrazia. Capo, c'è l'amaro del capo. Allora, ho letto questa, vi giuro, sulla stampa ho letto questa. Hanno cambiato il nome della tassa, dalla Trise diventa IUC, perché così suona più dolce. Ma come suona più dolce? È una tassa! Suona più dolce. IUC! Che poi suona più, a me sembra un po' da ubriachi, yuk, non lo so. Ma com'è possibile? Cioè, il risultato è che forse si paga di più. Però, insomma, vabbè, queste assist. Ma adesso faranno gli studi di onomatopeica adesso, sì, per quello che riguarda l'introduzione delle tasse. Una volta bastava l'inglese per edulcorare la pillola. Sì, sì. Perché invece bisogna partire quella roba là. Sembra una cosa che uno sta mangiando, una cosa buona. Esatto, esatto. Ci fregano così, cara Aurora Lussana. Ma voi della Lega siete lì sul fronte a non farsi fregare, eh? Allora. No, non Senkunsha. Cioè, per fortuna, guarda che non c'ho la casa di proprietà. Senkunsha, tipica espressione pugliese per dire siamo conciati. Senkunsha. Ma questo è l'epifenomeno per lo sbando totale. Sì. Ma sì, dai. Vabbè, poveri, dove vanno? Non, d'altronde. Ho capito. Comanni. Ma dai, adesso tanto finish. Sentito? Finish. Arriva Renzi, finish. E questo è il dato di fatto. Ma Renzi vi piace? Io non ho capito. Aurora Lussana, ti piace Renzi? Adesso un pochino, non è certo. Mi piace un'altra tipologia maschile politica. No. Ah, no, vabbè, no, ma cosa c'entra maschile? Dai, ti piace politicamente? No, scusami, in politica uno deve avere anche delle qualità umane per essere credibile. La credibilità politica passa sicuramente da un progetto politico, ma anche c'è un elemento umano imprescindibile per chi fa politica. Quid, direbbe il Berlusca. Il quid, no, appunto, c'è il quid. No, dai, c'è quell'elemento lì, quel che ti trascina, cioè, mi piacciono quei politici, insomma, capaci anche di trascinare un po'. Lui, ripeto, lo dicevo forse l'ultima volta con te, c'è un po' del alza la cornetta, mondi a casa ti aspetta. Ah, sì, è suggestivo, sì. Eccezionale comunicatore, molto televisivo. Vabbè, più o meno mio coetaneo ha un anno in più di me, Renzi, però di giovane non c'ha niente. Ah, mi dicono che Yuk forse è il verso di Pippo. Yuk. No. Sì, ce lo scrivono due ascoltatori diversi. Ma Yuk. E allora bisogna dare i diritti alla Walt Disney. Ma quello è di quello di Topolino, Pippo. Io ma non lo sapevo. Fanno causa, Yuk. E devo dire anche somiglia molto a Letta, Pippo, ha una certa somiglianza con addirittura. Ma senti Vladimir, senti l'ex onorevole Crosetto sulla Santanché e le manifestazioni, senti. Io non posso essere identificato come un amico, cioè uno che non critichi anche Forza Italia PDL, però io non me lo vedo Gasparri, Brunetta, la Santanché spaccare le vetrine, ci può essere la Santanché che assalta Hermès, ma con la carta di credito. L'assalto a Hermès con la carta di credito di Daniela Santanché, al massimo questo può succedere, cara Vladimir, questo può succedere nelle manifestazioni a colpi di tacco 12 la Santanché anche in manifestazione. Vabbè, vedremo anche questa, la manifestazione domani, dopo la forse decadenza, se si voterà. Attenzione, ma Casini ha detto blocchiamo tutto, rinviamo, è il passo della conciliazione. Quante ne vedremo delle belle. Io vi devo salutare, vi devo ringraziare Aurora Lussana, direttore della Padania, e Vladimir Luxuria a Trieste, che oggi a 300 metri protesterà contro la visita di Vladimir Putin. E come andrà a finire? Vedremo. State attenti, Vladimir, state attenti. Il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:20 minuti. Sforza anche. Sveglia, cara Italia. Dai, che bisogna produrre, bisogna andare a lavorare. Razza di debosciati che non siete altro. Finite in fretta le colazioni e buttatevi in macchina o sui mezzi pubblici. Che bisogna andare a produrre. O bisogna andare anche a scuola. Chi lo sa? Intanto di che parleremo noi? Alle 8:15 parleremo di questa paralisi che c'è stata per qualche giorno anche a Genova con i lavoratori dell'azienda dei trasporti pubblici, ma insomma qualcuno dice che potrebbe essere la premessa per proteste sociali anche in altre città, ma altri dicono ma come? Ma le aziende municipalizzate, abbiamo visto anche lo scandalo a Roma dei biglietti taroccati, sono tutte in passivo, e allora perché non aprire ai privati? Che male c'è di aprire ai privati? E soprattutto, insomma, questa vicenda, questa paralisi che ha portato per 5 giorni di grande disagio a Genova, cercheremo di raccontarla. Avremo con noi il rappresentante sindacale Andrea Gatto, che a Genova, ma non solo, anche in tutta Italia, coordina tutti i sindacati dei trasporti. Avremo Carlo Bonini di Repubblica, che sta raccontando in questa inchiesta lo scandalo dell'ATAC, e il professor Marco Ponti, esperto di trasporti. Tutto questo alle 8:15, ora andiamo a scoprire cosa ci presentano i giornali che trovate in edicola. Le aperture dei quotidiani in questo martedì 26 novembre. Il Sole 24 Ore apre con un colloquio con il premier Enrico Letta. Sì all'appello sul cuneo, l'accoglimento della proposta delle parti sociali, cioè raccogliere tutti i soldi da spending review per abbattere il cuneo fiscale. La vicenda della legge di stabilità, che è in fase ormai di approvazione definitiva. La Stampa: casa, la tassa c'è, ma con lo sconto. Il Messaggero: tassa sulla casa, così si cambia. Il Secolo XIX, casa, ecco la nuova tassa. Oh, tra l'altro l'hanno chiamata Yuk, come abbiamo detto, il verso di Pippo. Yuk. Vabbè. Andiamo alla vicenda Berlusconi. L'ultima battaglia di Berlusconi, Corriere della Sera. Per Repubblica: Berlusconi, salvatemi o vi pentirete. Il Fatto Quotidiano: il Caimano è disperato, chiede aiuto ai 5 Stelle. Il Giornale: nuove prove, vecchio odio. Le nuove prove, quelle presentate ieri da Berlusconi. Libero: meno uno alla decadenza, sono innocente, ecco le prove. L'Unità: Berlusconi già all'opposizione. Il Manifesto invece, quel ve ne pentirete, che in realtà non l'ha mai detto, ma vi pentirete, ma ripensateci. La maledizione, questo è il titolo con la foto di Berlusconi, mentre il Travaglio della Pace, il colloquio Papa-Putin è l'apertura di Avvenire. Ma io voglio andare sul Corriere della Sera con l'invito solito: mani strette sul volante se state guidando, cari ascoltatori, perché è chiaro, vengono distillate anche le anticipazioni del libro Se muore il Sud di Gianantonio Stella e Sergio Rizzo, e che uscirà credo domani. Ebbene, questo racconto a pagina 10, l'ente siciliano per la formazione con sede a Buenos Aires, succede in Italia, Rizzo e Stella. Ma cosa addestrano, astronauti? Così sbottò uno degli ispettori europei. Neanche l'addestramento di un astronauta sarebbe costato quanto quello di un apprendista formato dal CIAPI di Palermo. Costo del progetto: 15.191.274 euro. Apprendisti avviati al lavoro: 18. Complimenti! 843.959 euro ad apprendista. E così la relazione dei controllori mandati dall'ufficio antifrode dell'Unione Europea a indagare sulle anomalie del centro interaziendale addestramento professionale integrato di Palermo fa accapponare la pelle. È lì che vedi come, mentre a Roma, a causa della crisi, vengono avviati tagli dell'84% per il rischio idrogeologico e del 91% al fondo politiche sociali, in Sicilia continuavano a mungere la grande vacca della formazione. E allora eccoli qui, il CIAPI arrivò a dotarsi di una sede a Buenos Aires. Azzardiamo, scrivono Rizzo e Stella, corsi di formazione al tango. E è uno degli esempi del degrado della formazione. Per esempio, scriveva lo scorso anno Ludovico Albert, un dirigente piemontese chiamato l'anno prima dal predecessore di Crocetta, Raffaele Lombardo, sulla formazione. Bastava metter su un ente, farsi accreditare dalla regione, che non avendo voglia di controllare i profili di ogni new entry, come chiedeva l'Europa, si accontentava di un'autocertificazione sufficiente per dare accreditamento provvisorio, accreditamento che col tempo si consolidava senza che mai fosse fatto un solo controllo. E allora ecco che ogni anno accorrevano sciami di enti seri e anche enti cialtroni, e c'era chi proponeva corsi per registi di cortometraggi, corsi per housekeeper, che poi sono le casalinghe, ma scrivono Rizzo e Stella, in inglese suona tutto più manageriale. Chi per operatori olistici per benessere del massaggio, chi per tecnici del trucco e parrucco dello spettacolo e cinematografico, chi per artisti polivalenti, chi per esperti in scrittura creativa, chi per istruttori di Pilates, chi per addetti alle torrette d'avvistamento e spegnimento incendi del parco delle isole Egadi. Ma il parco esiste? Chiederete voi. No, un giorno o l'altro, però chissà. Vabbè, l'ente siciliano per la formazione con sede a Buenos Aires è il racconto, uno dei racconti all'interno del libro Se muore il Sud, degli sprechi e davvero incredibili, in questo caso alla regione Sicilia. Io, come detto, dopo parleremo di questa protesta dei lavoratori dei trasporti che per qualche giorno ha paralizzato Genova, ma c'è anche lo scandalo dell'ATAC a Roma, ci sono città come Firenze dove la privatizzazione è stata fatta, ci sono città come l'ATM dove, se leggevo bene un paio di giorni fa, c'è un attivo alla fine dell'anno, una delle poche aziende di trasporti municipalizzate, dove però è stato aumentato il biglietto quest'anno. E allora fa sapere Libero che gli scioperanti selvaggi di Genova sono sotto inchiesta, arrivano multe per 2 milioni. Giordano Tedoldi, a pagina 16, per 5 giorni da martedì a sabato a Genova ha regnato il caos, i giorni dello sciopero selvaggio dell'azienda Mobilità e Trasporti, gravata da un disavanzo di 8 milioni di euro. Sabato l'assemblea dei lavoratori ha votato per l'accordo in un clima tesissimo e durante il voto i lavoratori si sono spaccati, ma ecco che ora è stato aperto un fascicolo per interruzione di pubblico servizio. I cittadini chiedono i danni all'azienda, i sindacati gridano allo scandalo, ma la lotta dura ha il suo prezzo. Tra l'altro su questo c'è anche un commento in prima pagina del Sole 24 Ore di Giorgio Santilli, molto duro: il ritorno dei camalli, come con i camalli negli anni 80 e forse peggio di allora. Genova in questi giorni è stata il teatro della peggiore conservazione che paralizza il paese, quella delle corporazioni e delle minoranze che tengono in ostaggio i trasporti. E scrive ancora Santilli nel commento che continua a pagina 4 del Sole: nessuno ha spiegato a Genova, conti alla mano, che il trasporto pubblico locale è uno dei grandi malati d'Italia, con aziende che coprono con i ricavi solo il 35% dei costi operativi. In quale paese una situazione del genere sarebbe tollerata? Si preferisce agitare, peraltro a vanvera, lo spauracchio delle privatizzazioni per difendere uno status quo anziché fare i conti con la realtà. Insomma, è così, continua il commento molto duro di Giorgio Santilli in prima pagina del Sole 24 Ore. Ma ne parleremo alle 8:15. Ora andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalla notizia politica. Certamente la notizia politica del giorno, e come detto ieri sarà della settimana, è la vicenda decadenza di Silvio Berlusconi, calendarizzata a domani, ma chissà, salvo sorprese. 24 mattino. E allora manca un giorno al voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Ieri ha fatto una conferenza stampa, ha detto: ecco le nuove carte, voto da rinviare, le nuove carte che mi scagionano arrivano dall'America. Io l'ho detto con ironia, propongo almeno un bonus di 1 milione di euro per i giornalisti che nelle redazioni saranno costretti a leggere, che si occupano di giudiziaria, saranno costretti a leggere le nuove carte nella vicenda Silvio Berlusconi, telenovela giunta alla puntata numero 7322. E comunque il dato di fatto è: Berlusconi, le nuove carte, voto da rinviare. Questo è il titolo per esempio del Sole 24 Ore a pagina 9. Ci sono 7 testimonianze inedite per la revisione, e poi questo appello che alcuni giornali di orientamento di centrodestra come il giornale Libero propongono integralmente, insomma quel Berlusconi che dice soprattutto al PD, al Movimento 5 Stelle: mi rispettino, il sì alla decadenza è una vergogna, non assumetevi questa decisione, vi dovrete vergognare con i vostri figli, anche pentitevi, insomma vi vergognerete se prenderete questa decisione. Ovviamente ci sono tantissimi retroscena su quello che sta pensando Silvio Berlusconi, come quello di Carmelo Lo Papa, pagina 3 di Repubblica. Il titolo è: Silvio resta in campo e punta sulle urne, Renzi è una mina, farà cadere Letta. Ormai tutti assicurano che Silvio Berlusconi è pronto a una campagna serrata in TV. Oggi subito su canale 5 questa mattina, poi è previsto un porta a porta al più presto, ma poi saranno 6 mesi di martellamento mediatico, questo almeno fanno sapere tutti i giornali, occupazione old style degli spazi disponibili. E Berlusconi che pensa alle urne dice di Renzi: ve lo dico da tempo, il prossimo segretario PD è una mina, li farà cadere, scrive Repubblica. E poi ancora: invita alla manifestazione di domani, pagherà tutto, un servizio bus gratuito per la capitale e il partito, Forza Italia. E poi guarda già ai prossimi ammiccamenti, per esempio sentite questa: ognuno di voi dovrà fare proseliti nelle proprie città, dice ai suoi. Per esempio, avviciniamo associazioni e mondi a noi finora lontani. Fa l'esempio degli animalisti. Eccola qua, sentite Berlusconi. Con questo paradosso, se oggi una moglie viene messa di fronte all'alternativa se mettere fuori casa il marito o il cane, non ha dubbi e sceglie di tenersi il cane. Dunque concentriamoci sugli amici dei cani. Ecco, questa è la nuova strategia, secondo Repubblica, di avvicinamento di Silvio Berlusconi anche nei confronti degli amanti degli animali. E poi lo sfogo su Napolitano: è stato un mio grande errore fidarmi e ho sbagliato a farlo rieleggere. Questo Silvio Berlusconi. Tra l'altro, che cosa si prospetta per domani? È calendarizzata per domani, dovrebbe essere calendarizzata la decadenza, ma secondo sempre Repubblica con Liana Milella, Forza Italia è pronta all'ultima trincea, per esempio interventi a raffica per far slittare tutto. C'è da dire che su questo c'è una sponda da parte di Pier Ferdinando Casini, che è rispuntato e dice oggi guadagna 2 pagine di giornali sia sul Messaggero sia sul Corriere della Sera. Casini: congelare il voto sul Cavaliere. È stata già definita quella di Pier Ferdinando Casini, come scritto nell'articolo di Dino Martirano, la mossa della pacificazione. Pier Ferdinando Casini: rinviamo il voto sul Cavaliere. Anche per il Messaggero: decadenza, arriva il lodo Casini, lo chiamano così. Il Senato aspetti la pronuncia della Cassazione sulla legge Severino e dunque si rinvii tutto. Per il giornale la strategia di Berlusconi domani sarà quella di non presentarsi al Senato, perché, come scrive Adalberto Signore a pagina 5 del giornale, avrebbe voluto esserci, tanto da aver già scritto buona parte dell'intervento da tenere in Senato. Poi si è immaginato la scena: un attimo dopo il voto il presidente Pietro Grasso che pronuncia la formula di rito e invita Berlusconi a lasciare l'aula di Palazzo Madama. Così l'ex premier si è convinto che non fosse il caso di consegnare ai posteri l'immagine di un congedo dal Parlamento tanto mesto. E dunque la decisione di Berlusconi sarebbe quella di non presentarsi al Senato, ma fare una sorta di manifestazione, comunque una lotta di piazza. Comunque tutti in retroscena sono su questo, la rabbia del Cavaliere sui traditori, mi vergogno per loro, questo è anche il titolo dell'articolo di Salvatore Dama su Libero a pagina 6, mentre l'Unità fa sapere che è un Berlusconi che oggi annuncerà di andare all'opposizione e racconta Simone Collini a pagina 6, Letta pensa già al dopo, il Cavaliere è irrilevante. Ecco, questo è una frase attribuita a Enrico Letta dall'Unità. Forza Italia va all'opposizione. Enrico Letta non è preoccupato da un simile scenario perché l'uscita di Berlusconi dalla maggioranza e soci non può che determinare una situazione più chiara, e avrebbe detto Letta: Berlusconi è irrilevante sul piano del sostegno al governo dal punto di vista dei numeri. C'è da dire che anche Francesco Verderami, nel suo retroscena di oggi sul Corriere della Sera a pagina 6, dal titolo I partiti già guardano al dopo, ma forse servirà un voto dell'aula. Racconta Verderami, il giorno del giudizio deve ancora arrivare, eppure tutti i partiti guardano già al dopo, come se avessero metabolizzato anzitempo la decadenza del Cavaliere. Sebbene il passaggio di domani sarà epocale e segnerà in modo drammatico la cesura del ventennio berlusconiano in Parlamento, ma proprio gli effetti di questo evento impongono alle forze politiche di elaborare le mosse successive. E racconta Verderami, per esempio, non è al 27 novembre, ma è all'8 dicembre, cioè all'avvento di Renzi, che è lì si rivelerà il giorno del giudizio nel Partito Democratico. È lì che i partiti in realtà stanno guardando per capire in che modo cambierà la geografia del potere di palazzo. E dunque non è tanto la giornata di domani quanto l'avvento di Renzi che viene in qualche modo guardato con grande attenzione. Tanto che ieri Renzi che cosa ha detto? Beh, l'abbiamo fatto sentire anche alle 6.30, dal 9 dicembre subito le riforme, subito si faccia quello che decide il PD o il governo finish, chiuso, Molto chiaro il messaggio. E dunque ecco perché, secondo tutti i notisti di politica, non è tanto al 27 novembre, cioè domani, la possibile decadenza di Berlusconi, quanto all'arrivo di Matteo Renzi, possibile, plausibile, ormai ipotizzabile, a capo del Partito Democratico, è lì che viene segnato il punto di svolta sul capire come andrà avanti la legislatura e il governo Letta, se andrà avanti sì o no. Ma voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Allora, buongiorno. Abbiamo la nuova tassa, la IUC. La IUC, sì. Mi hanno fatto notare che è il verso di Pippo in sì. Topolino. IUC. È un ricordo, sì, bello dell'infanzia, è vero. Anche se quello mi pare che fosse col K finale. Certo, con la Y greca e il K finale, ma suona come IUC. IUC, sì, ma io proporrei di trovare una sigla, insomma un acronimo che venga fuori la cosa, sì. Anche un po' come un film di fantascienza, perché effettivamente se vedi nelle nostre pagine interne oggi, nelle prime pagine, cioè, ci sono tutti delle ricostruzioni che spiegano come dovrebbe funzionare questa IUC, che è una etrina, anche lei, quindi ci sta un pezzo di IMU dentro, però un pezzo di TARI, un pezzo di TASI. E poi però insomma un pochino sull'abitazione, la TARI e la TASI si pagano sulla prima casa, insomma alla fine la fantascienza è che probabilmente si paga di più di prima. Ah, ecco questo. Appunto, cioè, la edulcorano con questo verso di pippiana memoria, ma sì. dato di fatto. Però vedi appunto come per quello pensavo a un nome della cosa, ecco. La cosa come in un film di fantascienza di un bel po' di anni fa, che almeno dava questa dimensione anche di poca, certo, trasparenza, di poca trasparenza, sì, effettivamente. Però vedo l'apertura del Sole 24 Ore, abbiamo sentito anche l'editoriale del nostro direttore, è diciamo un'apertura di Letta a questa proposta, cioè di utilizzare i soldi da spending review per abbattere il cuneo fiscale. Poi bisogna capire, sì, se sempre alle promesse, caro Mauro, corrispondano i fatti. Ma guarda, dovremmo vederlo rapidamente, nel senso che Letta, nell'accogliere l'invito che era giunto unanime dalle parti sociali, cioè sindacati e imprese, per destinare il risparmio della spending review a tagliare le imposte, a tagliare il prelievo fiscale, dice lo faremo con la legge di stabilità. Quindi, posto che da oggi dovrebbe esserci il primo passaggio parlamentare e in pochissime settimane andiamo a chiudere sulla legge di stabilità, se questo impegno c'è devono confermarlo subito. Certo. Quindi insomma, su questo invece non sappiamo ancora nulla, lo riferiamo sempre sul Sole 24 Ore di oggi, dell'IMU per chi deve pagarla, cioè in realtà sarebbe ancora in vigore l'IMU prima casa, ma vabbè, facciamo che l'aboliranno, non sappiamo ancora nulla dell'IMU e degli acconti, delle imposte, questo lo ma c'è tempo così. Fino al 16 dicembre, no? C'è io tempo. Vorrei dire ci sarebbe uno statuto del contribuente, ma adesso non voglio essere noioso a quest'ora del mattino e parlare del fatto che bisognerebbe avere almeno cose non retroattive, 60 giorni di anticipo, sono cose belle di un mondo che sarà, insomma, un mondo che vedremo un giorno. Abbiamo fiducia. Un'altra segnalazione del Sole, Mauro, per concludere? Guarda, so che tu dicevi sempre hai dei problemi con la gestione di questi 2 euro, oggi c'è insieme al Sole, ti diamo un quaderno che contiene tutte le risposte degli esperti, i dubbi fiscali più ricorrenti per le imprese, e questo vabbè non ti interessa ma te lo auguro un giorno, e lavoratori autonomi. Allora, se tu hai poi dei dubbi nel pagamento delle tue imposte, eccetera, c'è questo quaderno insieme al Sole 24 Ore, più di un centinaio di spiegazioni, di risposte. Per dare domande e risposte. Sì, ma io non ho grandi dubbi, me li tengo in tasca e insomma finiscono i dubbi questi 2 euro. Lo so, però prima o poi potrebbe venire la IUC. Vabbè. Li spenderò. Informarti sul fisco che c'è, poi su quello che sarà ti racconteremo. Lo spenderò comprando un topolino così di IUC e comincerò a capirne qualcosa lì. Va bene Mauro, intanto ti ringrazio, mi raccomando stasera forse torna la Champions League, sai, ma sono cose che non ti riguardano tantissimo. Grazie a Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Intanto sulla legge di stabilità vi voglio segnalare l'articolo del Fatto Quotidiano a pagina 7, denuncia in qualche modo il fatto con Daniele Martini: per le armi i fondi si trovano, 6 miliardi per le navi militari. E cioè si parla di questa legge di stabilità e di un vero e proprio blitz, accusa il Fatto Quotidiano, del ministro alla difesa Mauro, che ha trovato quasi 6 miliardi e mezzo per assicurare il mantenimento di adeguate capacità della marina militare, in pratica per rinnovare la flotta. E su Mauro, scrive il Fatto, hanno fatto breccia le valutazioni e le pressioni del nuovo capo di stato maggiore della forza navale, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi. Insomma, non solo gli F-35, con questo blitz in legge di stabilità è stata messa questa norma nella manovra e sono stati trovati 6 miliardi e mezzo per le navi militari. Questa è l'accusa del Fatto, ora il traffico. Ed eccoci qui alle 7:50 minuti, l'ultima parte della rassegna stampa con... ancora ci sono gli sviluppi della vicenda Esselunga. Ieri Mario Gerevini sul Corriere della Sera ha fatto sapere delle donazioni di milionarie del patron di Esselunga, Bernardo Caprotti. Oggi c'è in qualche modo la puntata 2, Caprotti, vado in pensione, deciso il futuro dell'azienda. Questo è il titolo di pagina 21. 5 giorni fa nella sede a Limito di Pioltello, sede dell'Esselunga, Bernardo Caprotti, conversando con un ristrettissimo gruppo di persone, ha detto cose di importanza fondamentale e le riporto al Corriere. La prima: lascio le cariche il 23 dicembre, tutte le deleghe operative in Esselunga, tutti i poteri di firma e i compensi, smetterà di essere dipendente della sua azienda dopo 62 anni di lavoro. Che succederà ad Esselunga? Sempre secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, la successione è risolta con un testamento tutto sigillato in una busta custodita dal notaio Carlo Marchetti, e succederà come nei film, fa sapere per il Corriere, apriranno la busta e si scoprirà. Ma secondo la ricostruzione più plausibile pare che Caprotti abbia detto: lascio tutto alla famiglia e tutti i figli, poi si arrangeranno. Tra l'altro lo stesso Caprotti, che è una persona, un imprenditore di una discrezione quasi proverbiale, sono rarissime le sue interviste, forse ne ha concesse un paio in tutti gli 88 anni di vita, scrive proprio una lettera al Corriere molto molto indignata per la pubblicazione di quello che è stato ieri, cioè le donazioni, tra cui 10 milioni di euro all'ex segretaria. E inizia così: oh caro direttore, sia io sia Gerevini siamo finiti in prima pagina finalmente. Se posso, vorrei dire che tutto ciò che ho dato in questi anni l'ho pagato in tasse e ho fatto donazioni anche a ricerca sul cancro, Vidas, bambini nefropatici, Shoah, San Raffaele. Scusa, mi fermo, sono stati i miei preferiti. Ah, poi insomma fa tutto un chiarimento sulla questa gazzarra, dovevamo essere fatti fuori, io, la dirigente Germana Chiodi, l'amministratore delegato Carlo Salza, tutto questo è uno terribile schifo. Mettere tutte queste cose in piazza mi ripugna, ma quando si arriva al punto di avere il numero del proprio conto corrente pubblicato su quello che è il Times del proprio paese, forse conviene sputtanarsi fino in fondo. E poi fa anche un PS il patron di Esselunga dicendo: le montagne di cose e di soldi che hanno avuto i miei due figli maggiori non le mettiamo qui, anche per decenza. Vabbè, questa è la vicenda Esselunga, c'è tutto un capitolo che vorrei affrontare sulla Russia, visto che arriva Putin oggi. C'è anche, come ci ha raccontato Vladimir Luxuria, alle 6.30 la protesta di Vladimir Luxuria, degli omosessuali, per la presenza dello zar Vladimir Putin, che ieri ha incontrato il Papa, ma non c'è tempo, perché insomma il tempo non c'è mai qui, e quindi sono in conclusione. E sono in conclusione con l'articolo più inutile scovato sui giornali, vale a dire: oggi vince Andrea Cuomo sul giornale, così il vino novello rischia di diventare una vecchia moda. No, dramma dei drammi, aiuto, scrive il giornale, mi è scomparso il novello, prima c'erano le feste, benvenuto novello, adesso al massimo potrebbero esserci le feste, toh! Chi si rivede? Il novello. Ma vi rendete conto? Tre quarti di pagina dedicato a questo tema. Qualcuno invoca la rifondazione novellista. Produrre magari meno novello ma più buono. Qualcun altro ne auspica l'eutanasia. Chi vincerà? Ma chi se ne frega, verrebbe da dire. La carta costa, amici del giornale. Ed è tempo di giornale radio. 24 mattino. Ben ritrovati alle 8:18 minuti da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, le immagini di Genova le abbiamo viste, no? Gli ultimi giorni, 5 giorni di sciopero selvaggio dei dipendenti dell'azienda dei trasporti pubblici locali. In scena è andata anche fisicamente una rappresentazione plastica evidente, anche con un faccia a faccia fisico con il sindaco Doria. Perché? Perché si è ipotizzato che per coprire il buco da 8,3 milioni di euro all'interno dell'azienda si puntava anche una parziale apertura alla privatizzazione. Ma di recente, 2 giorni fa, faceva sapere il Corriere della Sera che insomma solo il caso di Genova forse è andato agli onori della cronaca anche per la protesta molto visibile, ma negli ultimi tempi in Campania sono fallite 3 società di trasporto pubblico: l'ente autonomo Volturno, il centro consorzio salernitano di trasporti pubblici e ancora anche l'azienda di Caserta. Ma fa sapere il sottosegretario ai trasporti Erasmo De Angelis, su 1140 aziende di trasporto pubblico e privato locale il 44% è tecnicamente fallito, circa 1 su 2 tecnicamente fallite. E allora che cosa dà fastidio della possibile apertura ai privati? Certo, su questo pesa anche il taglio ai finanziamenti al trasporto locale, si stima i tagli di 1,6 miliardi, ma perché queste aziende, spesso gestite dalla politica o dalla mala politica, sono al collasso totale? Poi chi ci va di mezzo sono anche i cittadini, visto che la mobilità è un importante aspetto da garantire a tutti voi, magari anche ci state anche ascoltando adesso sui mezzi pubblici. Ne vogliamo parlare con Andrea Gatto, che è il segretario nazionale della FAISA, cioè il sindacato che è più imponente per il trasporto pubblico locale. Buongiorno Gatto e benvenuto. Buongiorno a voi. Tra l'altro lei ha fatto parte anche di questa 5 giorni. 5 giorni è durata questa battaglia dei lavoratori, sì, di Genova. Sì. E mi faccia salutare anche il professor Marco Ponti, che insegna al Politecnico di Milano, economia applicata. Buongiorno professor Ponti, eccoci. Buongiorno a voi. Lei oggi scrive anche di questo tema sul Fatto Quotidiano. Allora, intanto, Gatto, scrivono i giornali che stanno arrivando le multe perché i cittadini si sono infuriati. Multe per interruzione di pubblico servizio. È stato aperto anche un fascicolo alla procura. È vero che arrivano ai lavoratori le multe da pagare? Non è proprio per quello. Le multe derivano dal fatto che la legge 146 sugli scioperi prevede che il prefetto possa precettare i lavoratori in certe circostanze. Certo. E così è accaduto. I lavoratori non hanno ottemperato la precettazione e allora scattano le multe che possono arrivare fino a 500 euro ogni giorno di Quindi violazione. Quindi stanno arrivando, lei ci conferma effettivamente? Stanno arrivando. E che succederà? Le pagheranno? Le pagherete? Beh, tanto c'è una procedura amministrativa che prevede un ricorso, c'è tempo un mese alla contestazione del prefetto, dopodiché si può fare ricorso al TAR. Quindi insomma si vedrà prima. Senta, si oggi vedrà. Sole 24 Ore scrive in un articolo duro di Giorgio Santilli: sono tornati i camalli, anzi peggio dei camalli, no? Perché è il peggio del peggio, la peggiore conservazione che paralizza il paese, quella delle corporazioni, delle minoranze che tengono in ostaggio i trasporti. Insomma, voi in 5 giorni avete paralizzato una città. E guardi, lì il problema è che se fosse il sindaco Doria e il presidente della regione Claudio Burlando si fossero svegliati un po' prima e avessero attivato subito questo tavolo di trattativa e fatto le cose che hanno fatto dopo 5 giorni, probabilmente la città stava ferma qualche ora e basta. L'assenza della politica è quello che ha fatto, oltre il fatto di non aver mantenuto degli accordi già sottoscritti in precedenza, è il fatto che ha fatto proprio infuriare i lavoratori e ha fatto perdere qualsiasi controllo normale. Ma lei giustifica, diciamo, questa, l'esasperazione ha portato a questo? Perché le ha sentiti i dati? Come mai tutte le aziende di trasporto locale, non tutte per la verità, a Milano l'ATM è inattivo ma hanno aumentato i biglietti e ci sono delle società inattive, alcune hanno privatizzato, credo a Firenze, cioè, perché però molte di queste società perdono tantissimo, si parla anche ma di costi. Sono società per azioni, per legge, e le società per azioni sono sottoposte ai vincoli del codice civile, cioè se il disavanzo di gestione supera un certo limite del capitale sociale cominciano i problemi. Il capitale sociale viene eroso costantemente da un rapporto fra costi e ricavi che è squilibrato, e perché i finanziamenti sono in costante calo. Basti pensare che nella legge finanziaria 2013, la scorsa legge, è stato istituito un fondo nazionale per il trasporto pubblico locale dove sono stati inseriti 4 miliardi e 9. Fino all'anno prima c'erano 6 miliardi e 4. E appunto, 1 miliardo e 6 in meno. Però mi scusi, continuare a finanziare un secchio che è bucato e perde soldi e perde acqua, ha senso? Oh beh, allora bisognerebbe che il governo facesse quello che gli chiediamo da anni ormai, un tavolo con le regioni, con i comuni, con le aziende, con i sindacati e con i ministeri interessati, dove fare una riforma del settore seria. Una riforma del settore seria può prevedere anche degli esuberi di personale, che poi il costo, perché le nostre aziende sono aziende di servizi, la voce prevalente del costo è personale. Personale. Un piano di riduzione organico nazionale, ovviamente è supportato dagli ammortizzatori sociali che oggi non abbiamo. Quindi anche l'unica strada è quella. Evidentemente lei apre, diciamo, anche a ammette, insomma, che ci può essere una riduzione del personale, però con gli ammortizzatori sociali, certo, tutto, però. Però forse quello è uno anche dei problemi, gli esuberi. Se il finanziamento continua a essere ridotto, non, per forza, o si tagliano i servizi e si aumentano le tariffe, o si riduce il personale, non ci sono altre voci di costo sulle quali poter agire. Questo certamente. Allora, professor Ponte, a lei stupisce sentire un sottosegretario dire che il 43-44% delle aziende di trasporto pubblico tecnicamente è fallita? E se non la stupisce, se il dato lo condivide, vorrei capire anche il perché. No, il dato è molto molto peggiore di così. Ah, ecco. Perché non ci sono aziende virtuose. Io gli ultimi dati ufficiali del miglior rapporto che si è visto in questi anni della Cassa Depositi e Prestiti dice che in Italia abbiamo i più alti costi di produzione d'Europa, cioè far andare un autobus in Italia costa allo Stato molto di più che in altri paesi europei, con insieme alle più basse tariffe d'Europa. Cioè, questo la dice lunga sulla voragine vera, che non è quella delle aziende in deficit, perché i biglietti coprono appena il 30% dei costi. Sì. Cioè, è stato detto, Milano è virtuosa, ma è virtuosa perché piglia dalle nostre tasche 1 milione di euro al giorno, e a Genova non è che il deficit sia 8 milioni, sono 200 milioni quelli che pagano i contribuenti per i trasporti genovesi, gli 8 sono un extra deficit. E lo stesso ovviamente per i profitti, cioè Milano, cioè, fa piccoli profitti perché prende un fiume di soldi dalle nostre tasche. Nonostante, non è ancora peggio di così. No, è chiaro, dice, nonostante a Genova si prendano 200 milioni, fanno pure 8,3 milioni di deficit, quindi sarebbero 208 che milioni. Che vengono presentati non sono deficit veri o, per quello in attivo, profitti veri, sono deficit e profitti dopo il ripianamento, dopo i sussidi pubblici, che sono i più alti d'Europa per autobus chilometro. Tutto si può, se ci sono i soldi si può fare tutto. Ma lei cosa proporrebbe, per esempio? Perché lei dice tra le tariffe più basse d'Europa. Sai che quando qua a Milano hanno aumentato il biglietto della metropolitana, il biglietto del pullman, già subito la gente si è lamentata, non sapendo appunto che in città come Londra il prezzo del biglietto è forse il triplo rispetto, o il doppio rispetto a quello di una grande città come Milano. Potrebbe essere quella una soluzione? No, perché portare le tariffe a livello medio europeo con le finanze pubbliche disastrate che abbiamo mi sembra il minimo, ma non solo, bisogna anche diminuire i costi. È stato detto dal sindacalista che ci sono problemi rilevanti di esuberi. Certo che ci sono, perché c'è una normativa molto particolare che consente per esempio una presenza di impiegati in queste aziende abnorme, cioè c'è una parte non produttiva della forza lavoro che non è affatto piccola ed è consentita da una normativa molto particolare. Ma il punto base è che, e poi anche i costi del lavoro, oltre che la produttività bassa, c'è anche i costi del lavoro mediamente molto più alti che nel settore privato. Questo va anche ricordato, ma il punto base è quello che prescrive l'Europa e la normativa italiana stessa, cioè fare delle gare serie per vedere chi, non privatizzare, questo tra parte il fatto che per la privatizzazione italiana fanno ridere, sa chi ha, lei ha detto, è stata privatizzata l'azienda di Firenze, sì, ma sa chi l'ha comprata? Le ferrovie dello Stato, sono al 100% dello Stato. Sì, quindi lei dice una privatizzazione. Per Torino non c'è nessuna privatizzazione. Non è una vera privatizzazione, sì, effettivamente lì. Però pare che abbiano un po' risanato, almeno rispetto ai conti del passato. Ma voglio vederli bene, perché è come l'Italia, no? È come l'Italia con le poste, cioè faccio intervenire un soggetto ancora pubblico in modo che tutti i gatti sono bigi, poi non so se rendo l'idea. Cioè, chissà come ha funzionato davvero quella situazione. Ma comunque il punto base rimane che abbiamo i sussidi più alti d'Europa. Questo lo Stato e i comuni non se lo possono più permettere. Punto. Quindi si bisogna alzare le tariffe e abbassare i costi attraverso gare. Le gare finora sono state fatte, un centinaio circa. Sono state tutte finte, gare finte. Ecco, cioè, io su sono questa... state vinte tutte da quelli che c'erano prima, perché i comuni, le regioni e le province non volevano nessun tipo di competizione. Però non appena si è parlato di privatizzazione, Andrea Gatto, no? Se subito, anche se dice il professor Ponti, privatizzazioni in realtà non ce ne sono. A Firenze, per esempio, la privatizzazione poi vuol dire che è stato controllato dalle Ferrovie dello Stato, che non è certo privata. Gatto, appena si è parlato di questo, subito è scattato quasi un riflesso pavloviano dei sindacati a dire no, ecco, anche con l'aggressione fisica al sindaco Doria. Perché? Allora, tanto Firenze, è vero che Bus Italia è una società controllata al 100% dalle Ferrovie dello Stato, ma è la ex Sita, è una società di trasporto pubblico privato che ha una storia decennale, addirittura secolare, che era ed è una mentalità, è un tipo di gestione privatistico. Dopodiché hanno fatto presto a risanare, hanno messo su 1200 dipendenti 200 esuberi. E qualcuno se li deve prendere, è chiaro che così si fa presto a risanare. Però lei stesso dice che lei stesso ha detto che di esuberi ce ne sono, soprattutto se continuano i finanziamenti a essere tagliati, la questione esuberi è una questione da affrontare. È una questione da affrontare, ma è da affrontare in modo intelligente, in modo responsabile, perché dichiarare che nel settore, come fanno le associazioni delle aziende, ci sono 10.000 esuberi e poi non porsi problema concretamente con delle leggi particolari, come queste persone accompagnarle alla pensione, insomma, come si è fatto nei porti, nella siderurgia, in tantissime altre situazioni, è un po' irresponsabile. Adesso noi abbiamo un incontro giovedì con il Ministro del Lavoro e il Ministro dei Trasporti, vediamo se riusciamo a costituire questo benedetto tavolo che affronti una volta per tutte in modo sistematico questo tavolo che lei chiama. Allora, dopo la pubblicità ci collegheremo anche con Carlo Bonini di Repubblica, perché tante volte le aziende dei trasporti pubblici sono state anche, e lo sta rivelando la stessa Repubblica in caso dell'ATAC a Roma, degli scandali, dei pozzi neri dove la politica si è annidata e ha fatto degli scempi inenarrabili, e che Repubblica sta raccontando giorno dopo giorno. Ci racconta anche, ci scrivono gli ascoltatori, come due a Parigi costa 1,50 euro il biglietto. Insomma, scriveteci quanto costa in Europa se siete in giro, e chiamateci anche 800 24 00 24, perché il trasporto pubblico locale in Italia funziona, diciamo, così, per usare un eufemismo. Tra poco 24 mattino. Allora, eccoci qua alle 8:37 minuti insieme ad Andrea Gatto, ricordo, segretario nazionale della FAISA CISAL, trasporto pubblico locale, insieme a Marco Ponti, docente al Politecnico, cercando di capire il perché del dissesto del trasporto pubblico locale. Ci ha raggiunto anche Carlo Bonini di Repubblica. Buongiorno Carlo, eccoci qua. Ciao, buongiorno a voi. E voi raccontate da giorni quello che invece è un altro tipo di disastro legato anche alla mala gestione della politica all'ATAC di Roma, un buco che ha creato, a parte insomma la vicenda dei 70 milioni, no? Questa è la cifra di biglietti ogni anno messi, accantonati, biglietti falsi. L'ultima che leggevo, a tua firma e del collega, dirigenti che sarebbero occultati soldi a San Marino. Voglio dire, Carlo, dove interviene la politica con la sua mala gestione per buttare al dissesto poi questo tipo di aziende? Ma guarda, io credo che con ATAC ATAC ripropone un vecchio format, vecchio nel senso un antico format della politica. ATAC non è molto diverso da quello che abbiamo visto negli anni scorsi, era accaduto in Finmeccanica. La politica, esistono luoghi e strumenti della spesa pubblica, grandi aziende di Stato piuttosto che aziende, in questo caso aziende del trasporto pubblico, dove la politica ha una gestione diretta attraverso i manager che nomina. E ovviamente lì il conto economico non ha nessuna importanza. Il servizio viene mediamente pagato 2-3 volte quello che sarebbe pagato in condizioni normali di mercato. Il ritorno evidentemente è una forma di finanziamento costante, continuo alla politica, sia in termini finanziari che in termini anche di consenso. Bisogna immaginare che a Roma ATAC ha qualcosa come 12.000 dipendenti, 12.000 dipendenti significa 12.000 famiglie. È chiaro, è chiaro. Quindi c'è un indotto anche del consenso importante. Insomma, è uno di quei casi. ATAC, ripeto, ripropone un vecchio format dal punto di vista del finanziamento, questo connubio velenoso, tossico tra mala gestione della cosa pubblica e consenso e finanziamento, e dall'altra, diciamo, però pone anche il paese di fronte a una questione molto semplice, cioè questo è l'Italia è un paese che non può più permettersi questa roba qui, non può permetterselo perché, diciamo, in un paese come il nostro non è pensabile che l'azienda di trasporto pubblico più grande del paese abbia un debito consolidato di 1,6 miliardi di euro e abbia un deficit annuo che oscilla tra gli 8 e i 900 sì, milioni. Sì, scriveva al Sole 24 Ore le perdite più di quanto ha perso all'Italia negli ultimi 10 anni. Allora, professor Ponti, lei che è abituato a vedere i conti, a vedere come il trasporto si può migliorare, poi dopo si scontra di fronte a queste gestioni che vanno a, inevitabilmente, come ci ha detto Carlo Bonini, a confrontarsi con la politica, perché sono terreni dove la politica decide. E allora tutto questo va a farsi benedire, cioè i suoi conti, i suoi calcoli, i suoi modi per cercare di ottimizzare. Ovvio, però i nodi vengono aspetti. Adesso la situazione non è più finanziaria. Finché c'è qualcuno che paga tutto va bene, ma adesso non è più tollerabile, e le nostre amministrazioni locali sono una lunga fila di coccodrilli, cioè non hanno mosso un dito negli ultimi 10 anni, sapendo benissimo questa situazione. Ho capito, ma dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare che salti il banco. Perché non hanno fatto le gare? Perché non hanno alzato le tariffe? Sì, però mi scusi professore, dobbiamo aspettare che salti il banco, perché così almeno esplode tutto. Però intanto succede che le persone che vogliono spostarsi fanno saltare il banco perché non hanno fatto nulla. Adesso noi dovremmo pagare, il che ovviamente è inammissibile, per cui occorre da subito fare gare vere, chi chiede meno soldi per fornire quel servizio. Ma secondo lei questa politica è in grado di farlo? È in grado di farlo questa politica, che spesso si è rivelata, come ci ha detto Bonini, e come si è rivelato in questi anni, puro clientelarismo per cercare di ottenere consenso? L'alternativa, visto che i soldi non ci sono, l'alternativa è la peggiore possibile: tagliare i servizi. Questa è l'alternativa socialmente meno accettabile. È meglio pagare un po' di più a livelli europei, cioè comunque sussidiati, oppure trovarsi l'autobus tagliato sotto casa e non poter più andare al lavoro e perdere il posto di lavoro. Non c'è dubbi che questo è il peggiore dei ricatti, quello di tagliare i servizi. Certamente. Invece di provvedere a alzare le tariffe e a diminuire i costi. Ma se non si fa nulla, cioè se non si fanno le gare, è quello che succederà. È il dissesto. Andrea da Roma, buongiorno Andrea. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Senta, io volevo riportare un po' un caso che mi era venuto da un conoscente. Praticamente lui mi ha detto che ci sono, secondo lui, lui lavora lì oramai da 15 anni, troppi impiegati, troppe persone pagate di più per quello che fa. Ma lì dove, mi scusi? All'ATAC. All'ATAC. E i meccanici, lui mi diceva che loro regolarmente timbrano il cartellino e poi se ne vanno mezz'ora, un'ora al bar. E se noi sommiamo questo al fatto, diciamo, di quello che abbiamo visto, i biglietti clonati, se poi non fanno, e qui io mi rivolgo anche al sindacalista, perché qui quando qualcuno deve fare qualcosa che non gli compete, allora tutti alzano le mani. Per esempio, che cosa aspettano a far rendere gli autisti anche i bigliettai? Come funziona a New York? Se tu entri dalla porta davanti, non metti i soldi dentro, certo, per evitare che la gente non paghi il biglietto. Pagano tutti, se non fanno più i biglietti clonati, tutti li pagano. E tutti fanno il loro dovere. Allora, no, ma pone due temi interessanti. Le risponde prima Bonini sull'aspetto ATAC. Lei dice: un mio conoscente mi ha fatto sapere che ci sono impiegati che timbrano, se ne vanno, troppi impiegati e pochi autisti, come diceva prima anche il professor Ponti. Allora, Bonini, questo è anche uno spaccato, cioè di un'azienda che in pratica non funziona. Le persone che dovrebbero fare le cose non le fanno, le persone che dovrebbero timbrare fanno i fannulloni. Adesso, per carità, non tutti così. Ma è questo uno spaccato realistico, Carlo? No, ma è uno spaccato assolutamente realistico. La lista dell'ascoltatore l'elenco potrebbe continuare. Commesse pagate mediamente con ricarichi del 50-100% rispetto ai valori di mercato. Quindi l'ascoltatore ha ragione. Il punto, insisto, quello di prima, per cui per esempio io non sono d'accordo, purtroppo temo che un aumento delle tariffe non basterebbe. Se un'azienda non è gestita con criteri di efficienza, un maggiore flusso di cassa non risolverebbe la questione, aumenterebbe semplicemente la massa liquida su cui creare provviste nere. Allora, ritorniamo sulla questione dei due dei tanti manager di ATAC con i conti a San Marino. Ora qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che un amministratore delegato di ATAC apre un conto a San Marino. In quel conto a San Marino accende una posizione fiduciaria in cui risulta socio occulto di una società che poi diventa appaltatrice di ATAC, cioè l'azienda che lui guida. Tutto questo non è accaduto l'altro ieri e non ha provocato nulla. Cioè l'azionista unico, il pubblico in questo caso, non ha mosso un dito. Beh, ma non so, c'è la procura che indaga, voi avete raccontato. Sì, c'è la procura che indaga, ma diciamo, sarebbe stato sufficiente nel 2010, quando questi conti sono stati scoperti a San Marino. Io credo che se, diciamo, un amministratore pubblico viene trovato con un conto a San Marino, quantomeno il suo azionista fa delle domande, lo pone in condizione di ordinare delle spiegazioni. Tenete presente che questo manager di cui stiamo parlando tuttora è manager di ATAC, che guadagna 600.000 euro lordi l'anno. Ah, tra l'altro tra l'altro gli stipendi di ATAC, sempre per tornare al discorso dell'efficienza, sono stipendi fuori mercato. Ovviamente al rialzo. Quindi per questo dicevo, io temo che l'aumento delle tariffe aumenterebbe semplicemente il flusso di cassa, ma non... Sì, nel raccontare... No, ma certo, nel raccontare lo spaccato che avete visto dell'ATAC Repubblica, è come dire, il sospetto è che più soldi ci siano, più soldi ci sono per qualcuno per, come dire, rubare, diciamolo francamente. Invece, dopo il traffico, risponderà Andrea Gatto all'altra sollecitazione che faceva l'ascoltatore dal punto di vista dei sindacati, cioè, per esempio, perché non mettere i conducenti bigliettai, come succede in tre quarti di paesi del mondo, per evitare anche che la gente eviti di pagare il biglietto, per fare in modo che paghino tutti tra poco. Allora eccoci qua, Andrea Gatto, li mettiamo questi bei guidatori tra autisti che riscuotono anche il biglietto? Allora, innanzitutto bisogna premettere che il 26 aprile al Ministero del Lavoro abbiamo sottoscritto un accordo come sindacati nazionali con le associazioni delle aziende che prevede proprio la possibilità di controllo a vista da parte degli autisti del biglietto e titoli di viaggio. Però c'è un problema che bisogna dire. Io, mia moglie è inglese e mio padre ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in America, negli Stati Uniti. Sì. Lì c'è un sistema profondamente diverso. Primo, ci sono reti metropolitane che fanno paura, che le nostre fanno ridere. Secondo, c'è una netta divisione tra i passeggeri normali, diciamo l'utente normale, e gli studenti attraverso gli school bus, quei mezzi gialli. Quindi gli autobus di Londra, gli autobus di New York sono molto, molto, molto meno affollati di quelli di Milano e di Roma. Vabbè, ne fa una questione di affollamento. È una questione di affollamento, perché ci sarebbe un sacco di tempo a guardare i biglietti o addirittura a fare i biglietti capito. Nelle ore di punta. Questo è un problema, è un problema serio, proprio gestionale, tecnico. Però tecnico in che senso? Che si rallentano un pochino le... Pensi se ogni persona che sale su un autobus dell'attacco della TNV d'accordo, l'autista gli deve chiedere deve vendere. Ma succede in tutto il mondo, cioè se fosse così, non so, Ponti, lei ha un dato sulla, per esempio, quantificazione di quanti non pagano il biglietto? Di quanto può essere l'evasione? Il problema è le motivazioni. Alle aziende attuali non frega niente se gli utenti pagano il biglietto oppure no, tanto ripiana lo Stato. Se fosse in gara, fosse ha vinto una gara quell'azienda lì, ovviamente interessatissima ai ricavi da parte dei biglietti, quindi metterebbe in atto tutte le strategie perché i ricavi arrivano, perché i suoi eventuali profitti dipendono dal rapporto costi-ricavi. Quindi occorre che le aziende siano vere aziende, cioè vivano o non vivano in funzione del rapporto costi-ricavi, come qualsiasi altra. Ma lei accoglie l'unica è il termine incentivare. È privatizzare, ma il termine è gare. Se vince un soggetto pubblico, per carità, ben venga il soggetto pubblico, ma tendenzialmente se si fanno le gare vinceranno soggetti privati che gestiranno all'europea. Diciamo, la cosa importante è guardare l'Europa. La cosa importante, professor Ponte, è che ci sia qualcuno, un gestore, che abbia intenzione a che le cose funzionino bene. Ecco, diciamo di base. Poi lo si chiami pubblico, lo si chiami privato. C'è qualcuno, per esempio, che abbia intenzione che i biglietti vengano pagati. Perché se lei mi dice che a molte delle aziende non gliene frega niente che non vengano pagati, tanto paghiamo noi, no? Pantalone. Ma lei la capisce l'obiezione del sindacalista che ci dice, ci sarebbero anche i pullman affollati nelle ore di punta, non è come le in America. Le soluzioni si trovano come se l'esempio migliore è Londra. Sono stati fatti 550 diversi lotti, sono state fatte gare per questo e i costi sono diminuiti del 30%. Quindi è vero che non basta alzare le tariffe, bisogna anche ridurre i costi, ma bisogna avere buone gestioni, come diceva quel giornalista di Repubblica, e le buone gestioni ci sono solo se il cordone ombelicale tra politica e aziende è tagliato, se no le buone gestioni non ci saranno mai. Ma lì è troppo succoso il piatto per la politica. Mario da Verona, buongiorno Mario. Sì, buongiorno. Senta, io sono un autista dell'azienda di trasporto pubblico e francamente anche qua sentire che si voglia quasi individuare nell'evasione tarifaria il problema del settore mi lascia un po' sbigottito per un semplice motivo. Io consiglierei tutti quanti di andare a vedere gli appalti che ci sono nelle aziende pubbliche. A Vicenza sono stati arrestati dei dirigenti, a Verona sono sotto indagine. Oppure andrei a vedere la sistemazione di amici e parenti in queste aziende. No, ma guarda che per esempio Carlo Bonini ci racconta a Roma, dove gli appalti saranno anche più numerosi rispetto alle realtà che lei ci racconta, e ci parla di commesse di ben oltre i prezzi di mercato. Mario, vorrei fare, mi perdono, un'ultima considerazione, sì, se me la consentite. Il costo medio di una persona messa lì in più in un'azienda che si aggira intorno ai 40.000 euro equivale a circa 27.000 biglietti venduti. Quindi io, ripeto, porrei l'attenzione sulla gestione di queste aziende, perché e chiudo, sì, qua a Verona quest'anno l'azienda decide di non dare le divise ai lavoratori che spettano per contratto, e quindi riducendo, e va ad aumentare ancora una volta il personale amministrativo, quando già molti anni fa c'era stato detto che avevamo circa 27-28. No, ma è molto chiaro, caro Mario, e la ringrazio da Verona. Insomma, Carlo Bonini dice l'ascoltatore: non è tanto i biglietti non pagati, eccetera. È sempre lì, il pesce puzza dalla testa. Cioè, se la gestione viene fatta, una gestione di sprechi milionari, come voi certificate su Repubblica, il problema è questo cordone ombelicale che dice Marco Ponti sciogliere con la politica. Si potrà mai fare? Temo di no. Temo anch'io di no, a meno che, come è accaduto in questi anni, la politica non sia costretta a farlo. E i due strumenti di costrizione, ormai lo abbiamo imparato, sono o il rigore del processo penale, e quindi la paura di finire in un carcere, oppure il banco che salta, banalmente il banco che salta. Roma quest'anno, per restare a Roma, è all'ATA, che il comune è a rischio default, ha un debito del comune nel suo complesso, sì, di 800 milioni, che peraltro appunto equivale al debito che la sola ATA accumula ogni anno. La regione sta facendo un lavoro di spending review molto severo, e anche la regione ha contribuito in questi anni in maniera consistente a ripianare i bilanci di ATAC. Ecco, se nel momento in cui, come si dice a Roma, la greppia si svuota, è evidente che lì ci sarà un problema di risorse scarse da allocare, quindi evidentemente anche quella sarà. Certo, comunque sarà necessaria una costrizione. Non vedo all'orizzonte una politica così saggia che si autoriduca qualcosa più che il banco salti, che purtroppo però è la soluzione più traumatica. Io ringrazio davvero tutti i miei ospiti, Carlo Bonini, Marco Ponti, Andrea Gatto. Vi ricordo, tra l'altro, lo ricorderò durante la settimana, sabato, eccezionalmente sabato, dalle 14 alle 15 non ci sarà il meglio di 24 mattino, saremo in diretta, e saremo in diretta dalla fiera degli agenti.it qua a Milano, alla fiera, e potete venire a vederci, a conoscermi, a conoscere Miriam Lucchetti, a conoscere l'Alpino, chi lo sa, insomma potete conoscerci, andate su radio24.it e c'è tutto il modulo da compilare se volete partecipare come pubblico. Vi aspetto sabato alle 14, ora il giornale radio, invece vi aspetto qua domani alle 6.30 ovviamente. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Regali Fedon.it, quelli indimenticabili. Fedon, dal 1919. Vi ha presentato 24 mattino.